il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Bioresistenze, cittadini per il territorio, l'agricoltura responsabile. È questo il titolo di un volume di prossima uscita curato da Guido Turos, padovano e fotografo, che ha raccolto alcune esperienze di agricoltura sostenibile in varie regioni d'Italia e illustrate con splendide foto e descrizioni. Alcuni studiosi e ricercatori completano il volume con testi che sviscerano in qualche modo le parole d'ordine che stanno attorno al recupero dell'agricoltura, che non è più solo vista come la coltivazione della terra, ma è cultura, tutela del territorio, biodiversità e tante altre cose. Oggi abbiamo con noi proprio Guido Turus, appunto l'autore, autore anche di un altro libro che precede questo, da cui nasce anche questo, che si intitolava Biodifferenze, mentre oggi il nuovo libro si chiama Bioresistenze, al quale vogliamo chiedere appunto la storia di questi due libri e come è nata l'idea di quest'ultimo volume, che vede la collaborazione tra l'altro della CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, e del MOVI, il Movimento di Volontariato Italiano. Ciao Emanuele. Grazie di questo invito. Sì, Bioresistenze nasce da questo progetto di alcuni anni fa, Biodifferenze, che si concentrava sulla biodiversità, quindi sull'ambiente, sulle questioni ambientali, sulla perdita e la scomparsa di biodiversità. Lavorandoci ci siamo accorti come e quanto l'agricoltura, i progetti agricoli, avessero un ruolo importantissimo nel mantenimento della diversità biologica di un territorio. E quindi si è concluso quel percorso a cui sono anche emotivamente molto legato, molto affezionato, però abbiamo deciso di andare avanti, di proporre alla Confederazione Italiana Agricoltori come MOVI di continuare a lavorare su questi argomenti e di concentrarci di più sull'agricoltura proprio. Che cosa fa l'agricoltura per il territorio? Da questa richiesta è nato questo secondo contenitore, Bioresistenze, che vuole rifarsi, rimandare all'impegno anche politico, noi vogliamo dire, degli agricoltori nel prendersi cura non solo della biodiversità, come pensavamo all'inizio, ma anche del paesaggio, della cultura e delle culture contenute all'interno di un territorio, di alcuni cibi, ma anche addirittura difendere un territorio dagli abusi edilizi, dalle mafie, dagli scempi ambientali che ci sono. Quindi agricoltori, associazioni, cooperative, piccole aziende, ma anche grandi, che si prendono cura di un territorio, di una comunità che lì vive e fanno un gesto pienamente politico, secondo noi, di tutela appunto del territorio e della comunità. Ecco, il vostro è stato un po' un viaggio in Italia alla ricerca di queste esperienze. Che cosa vi ha colpito in particolar modo? Cioè, c'è qualche tipologia di iniziativa che vi ha colpito in modo particolare? Le esperienze che abbiamo incontrato nel realizzare questo percorso sono state una ventina, poco più di 20, e si provengono da più o meno tutte le regioni italiane. Abbiamo provato a sceglierle sulla base della loro differenza territoriale per far vedere che non è che in un territorio ci si occupi di qualcosa e in un altro no, che ci sia un territorio migliore di un altro. E la cosa che mi ha colpito incontrandola è che io pensavo di andare a incontrare in alcuni casi per il rispetto ambientale delle aziende biologiche, per il rispetto dei diritti della società, andare a incontrare delle cooperative legate a Libera che fanno antimafia, e quindi di incontrare delle realtà svincolate l'una dall'altra, ognuna impegnata su un fronte di difesa, di resistenza, sì, tutte impegnate in fronti, ma in fronti diversi. In realtà mi sono accorto che tutte queste aziende, quelle piccole, quelle grandi, le cooperative, le associazioni, sono accomunate tutte da una sensibilità particolare nei confronti appunto del territorio e delle comunità, come dicevo, e quindi incontri l'azienda biologica, addirittura magari biodinamica, che però ha il rapporto con la Caritas locale e che quindi ospita dei ragazzi per fare l'inserimento lavorativo, incontri le cooperative di Libera che però si sono rivolte a Slow Food per recuperare delle agricolture perse, delle specie perse in quel territorio, le cooperative di Libera che ormai anche loro fanno agricoltura biologica. Quindi il fatto è La cosa che mi ha colpito, ecco, è quella del fatto che quello che emerge non è tanto una settorializzazione dell'agricoltura in una direzione o in un'altra, ma è proprio il fatto che emerga una sensibilità da parte di alcuni agricoltori. Quando quella sensibilità emerge, ti interessi della comunità in cui sei, ti interessi degli altri, ti interessi dei migranti che arrivano sul tuo territorio per trovargli un posto di lavoro in un certo modo, ti interessi dell'ambiente, delle falde acquifere, ti interessi un po' di tutto, ecco, non alle parti stagni. Quindi l'agricoltura sta tornando ad avere un ruolo di centralità anche all'interno di un tessuto di comunità dove ci sono delle esperienze di questo tipo, a loro volta diventano catalizzatori, insomma, centrano le attenzioni e sono anche dei luoghi di sperimentazione e di innovazione, oltre che di difesa e di tutela del territorio. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Sarai amico, ripensandoti, ti rivedo in me. La visione che avevi dell'amore, la tua ironia e chissà dove. Sarai. Spesso da ragazzi passavamo insieme sere inutili e fu in un giorno di festa per gioco, lo so, io lo so. Nella tua mano vidi sulla mano la tua fine e così oggi dalla mia memoria scelgo il meglio della vita e del suo veloce volo che finisce, come sempre accade, troppo presto. Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile, per gioco, lo so. Io lo so, lessi nella tua mano, vidi sulla mano la tua fine, la tua fine. Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile, per gioco, lo so, io lo so. Lessi nella tua mano, vidi sulla mano, la tua fine, la tua fine. Torniamo. siamo in linea con la rubrica Al Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di bioresistenza con Guido Turus, che ha appena pubblicato un libro che si intitola appunto Bioresistenza, una raccolta di approfondimenti di esperienze e testimonianze nell'agricoltura agricoltura definibile responsabile. Che cosa possiamo intendere per la parola responsabile rispetto a quello che avete visto da queste varie esperienze? Agricoltura responsabile, cosa può esiste? L'agricoltura responsabile esiste, assolutamente, ed è l'agricoltura portata avanti da quelle aziende piccole e grandi, da quelle cooperative, in alcuni casi da quelle associazioni che fanno un'attività economica, perché questo è necessario, nessuno gli chiede di fare il loro lavoro gratuitamente, però lo fanno pensando al fatto che non si possa distruggere l'ambiente e la comunità che vive in quell'ambiente per fare soltanto profitto, e quindi bisogna riuscire a tenere legata la comunità, l'ambiente di un territorio, la possibilità di un futuro, di un domani per le generazioni che ancora non ci sono, al fatto che queste aziende giustamente debbano stare sul mercato. E quindi responsabilità significa fare delle scelte, assumersi la responsabilità di fare delle scelte rispetto a quanto sfruttare l'ambiente, quanto impiegare manodopera svantaggiata per fare dei percorsi, quanto aprirsi alle scuole per, non soltanto come possibilità economica, ma anche per insegnare un'alimentazione sana che segua le stagioni, che faccia conoscere ai bambini effettivamente il contesto contadino e rurale che circonda le città. Responsabilità, io direi, è la scelta, sta nella scelta e nella decisione di fare una scelta, di imboccare una strada anziché un'altra. Quindi biologico, chilometri zero, risparmio energetico, sono tutte cose a cui sono attenti per esempio queste aziende, oppure non necessariamente? Tutte queste aziende sono attente a questi temi, a questi argomenti. Sicuramente fare l'agricoltura biologica è un modo bellissimo e giustissimo per prendersi cura del territorio. Noi non vogliamo però prendere parte per un'etichetta o per l'altra. Vogliamo sottolineare il fatto che è importante richiamare gli agricoltori alla responsabilità che hanno, perché gestiscono un bene comune come il territorio, e i cittadini alle responsabilità che hanno nello scegliere dei prodotti. Poi non vogliamo però come dire, denigrare o demonizzare chi non fa la spesa a chilometri zero o chi non fa la spesa biologica. Quello che è importante, come per la domanda precedente, è la mia assunzione di responsabilità e il mio saper fare delle scelte. Non dobbiamo nasconderci dietro le etichette. Se io vado a fare la spesa e mi nascondo dietro l'etichetta biologico per credere di essere più bravo degli altri, sbaglio altrettanto. L'importante sta nell'avere il coraggio di fare una scelta, di saperla percorrere, di informarsi e di formarsi, di andare magari a conoscere i produttori, incontrare i contadini, non di guardare soltanto all'etichetta, che comunque è una cosa importantissima. Ecco, queste iniziative sono interessanti, però prima si parlava di agricoltura che è anche parte dell'economia e gli agricoltori devono anche fare profitto, quindi non stiamo parlando di solamente di un hobby, è così. Però queste esperienze non rischiano di essere magari qualcosa che può diventare un modello per dei piccoli imprenditori, per dei giovani magari un po' idealisti che si avvicinano all'agricoltura, o di essere un po' una moda? Cioè, c'è una proposta che può anche andare verso il mercato? Grazie di questa domanda, Emanuele, perché è assolutamente centrale e sensibile per tutto il percorso che abbiamo fatto. E le fotografie di questo volume ci sono, e ci sono proprio per mostrare che ci sono delle esperienze agricole reali ed effettive che stanno sul mercato. Non volevamo fare un libro di soli articoli in cui ci fossero i soliti professori che parlavano di argomenti che sembrassero non reali. In realtà, come accennavo prima, abbiamo incontrato soprattutto piccole aziende, in alcuni casi delle cooperative, ma abbiamo incontrato anche delle aziende grandi, di dimensioni più che grandi. E la responsabilità, l'impegno, la possibilità di costruire futuro non sta in capo alle associazioni di volontariato o alle cooperative, sta in capo a tutti, e sta in capo a tutti i cittadini, e tutti se ne possono assumere un pezzo. Le aziende che ho incontrato sono aziende che fanno economia vera, sono aziende che hanno anche in alcuni casi un'esperienza storica molto grande, molto bella, quella di Valli Unite in Piemonte. Mi spiace non fare un esempio del Veneto, ma quella di Valli Unite è veramente un'esperienza da questo punto di vista centrale, è un'esperienza che nasce da tre ragazzi, sì, all'epoca ragazzi, ma all'epoca negli anni 70, che fondano questa cooperativa che adesso fa tantissimo, occupa moltissimi ettari di terreno e soprattutto dà da lavorare a 30 persone, che significa 30 famiglie di quel territorio che negli anni 70 veniva abbandonato per andare nelle città e nelle industrie. E Valli Unite vive non di finanziamenti europei, altra polemica molto grande, sarà un altro discorso magari di un'altra volta, ma del lavoro che fa e di ciò che vende. È un luogo culturale aperto al territorio, è un'esperienza economica che ha riportato in vita quel territorio facendo tra l'altro agricoltura biologica, recuperando delle specie in via di estinzione e di smarrimento culturale. Quindi un'esperienza reale, un'esperienza vera e concreta. Ecco, per chi non riuscisse ad avere il libro, che tra l'altro credo sia stampato in edizioni un po' limitata, forse non è facile da trovare, però esiste un sito internet che è bioresistenze.it, nel quale si trovano anche tutte le molte delle interviste realizzate ad agricoltori, anche qualche cosa che forse non si trova sul libro. Quindi vi invitiamo a visitare anche il sito internet bioresistenze.it e grazie a Guido per questa testimonianza. Grazie a voi. Questa settimana siamo un po' in ritardo, abbiamo tempo solo per darvi due veloci appuntamenti. Sabato 1 marzo alle ore 10 a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, dove si terrà l'incontro Think Animal, il mondo visto dagli animali non umani, organizzato da Fondazione Ghirardi Onlus. L'incontro è dedicato all'esplorazione delle emozioni e delle abilità cognitive di quegli animali che sono direttamente o indirettamente maggiormente presenti nella nostra vita quotidiana. Il 31 marzo invece inizierà un seminario in tre lezioni sul tema attualissimo aziende agricole e social network, proposto da Veneto Agricoltura alla Corte Benedettina di Legnaro. Anche per questa settimana quindi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, riascoltateci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.